attenzione, canale 10 27 075. Hola. C'è qualcuno qua sul 10? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? C'è un concerto del genere. A me piace la musica fa. Vestiti di mio figlio. C'è un paese. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Dormire a me. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio, canale 10, 27, 075. Ciao, Riccardì, buonasera. Buonasera. E allora, cosa mi racconta? Il caldo rosso. Già ti ha sentito. Al 100%. Com'è che sei così forte? In che senso forte? Deve essere il cuore, mi si è abbassato un bel, oggi ti ascolto benissimo. Ah boh, non lo so, io non ho toccato niente qua, ma c'ho il microfono, l'MB più 4 e boh, non c'ho niente, è l'apparecchio omologato. Ho capito, c'erano quelli che mi stavano splatterando sul 12. Chi è che ti stava splatterando sul 12? Accendi la luce e concedi. Tomponi, ho cacciato con 800 watt. Anche Luca. Ma Luca non ha niente da attaccare. Sarà Pomponio che ti sblatterava, che poi due canali, e anche io non ho sentito a nessuno, la verità. L'ho acceso adesso e quindi non ho sentito a nessuno. Ho capito, no, c'erano quelli su 12 da prima, da mezzogiorno. Ah, capa, allora molto prima. Io l'ho spento, mi sono coricato, adesso me ne sono alzato e mi sono preso il caffè e praticamente ho acceso adesso, si può dire. Sì, ho capito. E io ero in ascolto su 12 perché stavo sistemando qui e niente. Ah, così è. E adesso però non c'è nessuno sul 12, non sento nessuno io. Perché il signor Popponio ha detto che è andato a fare la popò. E Luca che fine ha fatto? Luca era sul 12, però lui era meno forte. E era solo Antonello che stava spatterando con quegli 800 watt, È un pazzo furioso quello. Luca, ci sei? Ho illuminato lo strumento dell'SX200 che c'ha i LED, uno spettacolo. Bello bello, tu quanti paracchini hai? Per il momento due omologati, c'ho il Polmar e il Superstar 3009. Ah, ho capito, io me ne sono ordinati altri due. Ma cosa te ne fai di tutti questi baracchini? Vabbè, ma chissà, cantina. Per adesso sono i baracchini, sono 18 e 4 stazioni base. Scusa se sono pochi, Cata 18. Non li uso, il Lafayette, l'Inuit, il Polmar, un altro Inuit, Intec, Midland, SBE, poi non me ne sono anche usciti in testa. Vai sull'11 Alfa, che voglio vedere se ci arriva a questo. Ehi, a 27.095. Scappa, vai, va. Riccardino. Ci sono attento, mi stavo anche annoiando mentre stavo aspettando a te. Dovevo manovrare, cassettina, tu pure. Ho dovuto girare il commutatore d'antenna per farlo. manovrare questo. Com'è questo? La radio. Ma sei finito nella caverna natalina dove sei andato alla caverna estella di Giocca? Dai, no, il segnale è uguale all'altro e o no? Sì, il segnale è uguale. La radio questa è più brutta, da. Sì, è più bruttina. Aspetta, non mi ricordo, il segnale forse era 9, boh, nell'altro, adesso vediamo. Vabbè, da, adesso ripasso con l'altro. Ricca. Oh, guarda il segnale adesso com'è. Oh, sono 3 watt sempre, mi di più non dà, zio. Non dà di più. Questo dà, dà un Santiago di 9,5, poco più. E quindi 5 in meno, così è, dà quello là. Sì, positivo. Vedi, è anche più basso di segnale. Che dobbiamo uscire. Ma e tu sempre? No, negativo, quello deve essere Luca o Gian. Ma assolutamente non sono io. Ciao Luca. Bravo. No, non ero io, sono qua, sto controllando un PC, sono in ascolto. E allora era qualche altro che aveva il bip stesso. Che ragazzo. Luca, fai da bravo, se no vengo e ti picchio. Che ho chiamato, tu mi hai mandato un computer tuo cugnato, tuo zia. Tutto incasinato, c'ho questo coso in mezzo ai piedi che sta rompendo le scatole. Azzardo. Oh, ecco qua, ma ne sei tu. Sì, sì. Catarina Cocco, ma è vero? Non è vero. Perché non parlate in faccia che vi picchia tutte e tre? Il più Cocco, ma è Riccardino. Bello me, mica tu ce l'hai la corona del coccone. No, non c'ho nessun rumore. Ma l'hai incasinato, ecco cosa hai letto. Non c'è buca nel suo cacchio di cosa, glielo ho resetto di nuovo. Io, la richiesta ti è arrivata. No, prova a rimandarla a Riccardì, perché non è arrivato nulla qua. Eia, che ti sento, Antonio carissimo. Ai. Oh, esatto, Antonio mio, un caro. Però me, controllo adesso. E io non vedo nulla qua, nelle notifiche, non vedo niente ancora. Boh. Oh Luca, mi ha mandato l'amicizia e non me ne arrivi da me. Chissà chi l'ha mandata. Al secondo piano. Però me, in cantina ci vai tu. Perché tu a Riccardino davanti a me non lo tocchi, capito? È bello bene. Cosa ci fai a tutti e due tu? Oh, e io c'ho il mio cane adesso, che ha morsica. Adesso, adesso come fa, solo perché ha detto così lo faccio morsicare da culo. Vieni che Antonio mi vuole far graffiare dal gatto, vieni. Io te l'appoggio. Allora. Io te l'appoggio, Natalia. E beh, ti ho detto che sparivo 2 minuti. Se io invece ho l'amante, figurati, cazzo. A un certo punto gli ho mandato le foto, gli ho mandato quelle di cose di Natalino. E gli ho detto, mamma mia, quanto è brutto, mi ha detto. E vai, cocomane. Adesso gli mando quelle di Falcone. Chi è le foto di Falcone? Anto. Avuto delle foto e avrei fatto un sito, avrei fatto amicizia con tutte quelle ragazze che ci sono adesso, tutte single, cazzo. C'è ragazza per ammortizzarmi le ore. Vai, tu sì che mi cammini e mi pomponi. Ma non so fare. Nessun disturbo, zero completamente, non c'è nessun disturbo. Evidentemente sì. Bianco per me. Non lo so io, c'è la voce calda. C'è. Sì, calda, come l'acqua dello stando a bagno. Quando fai così mi ci temo. Mi sta diventando duro duro il pane. Per non diventare duro. Come, perché non hai mai sentito andare quel signore che fa, un signore anziano, no? Che va a questa panetteria e gli chiede questa signora vive da solo, cosa se ne fa di un chilo di pane? Tanto guardi che se ne sta prendendo un chilo, guardi che poi diventa duro, allora prendi a 2 chili. Ma guarda il pane duro, e ce ne serve 1 chilo, allora prende 2 chili. E così diventa più duro di più. Le baguette francesi. Cioè, mi diventa sempre duro, poi te lo diamo per gli animali. Non sei francese, tu. Catà, imburicata giornale sotto la cella, se lo mettono. Ma via. Io dai, che così almeno mi eccito, quando mi sbatteranno così. Riccardi, ma l'avete fatto scappare. Riccardino. Noi a poveri noi abbiamo fatto la guerra. L'amicizia di Riccardino non mi è ancora arrivata su Facebook, Luca, ma un bel ci mette. Forse ha mandato qualche altro account. No, che mi ha trovato. Io ho due amici in comune con lui. È un genio, è Massimiliano. Eugenio non si è più inteso. Cosa? Chi non si è più inteso, Eugenio? Riccardino, ci sei. Che barba, che noia, che barba, che oggi giornata. Giornata stupida per me, molto stupida. Da stamattina adesso, sempre stupida. Come? Bravo, di rogne, tante cose, Antonio. Tanti pensamenti, fa caridare. Finalmente di bibilisti. Vabbè, dai, ora c'è una fiesta. Che pagava. Oiaia. Sto cercando qua, ma non deve essere in questo profilo. E a me lui, sarà a casa sua, sarà Drumidu. Io penso, quando uno muore non ha più nessun problema, tu cosa ne dici? Io un grosso buchino. Non ho capito. Certo. Sì. Ma si può manco morire, no? Non avevo nemmeno idea come morire, cazzo. Già per campare venivamo di dire, ma per morire, venivamo di dire per morire che per campare. Ma devo scremarmi. Allora, dai, cazzo. Quanta gente è morta, quanta gente sta morendo, buh. Adesso l'altro giorno apro Facebook, questa ragazza giovane, buh, per carità, c'ho la mamma, ce l'ha messa la mamma, la figlia, cosa aveva avuto? Buh, una quarantina d'anni, ce l'ha avuti, 38, buh, giovane, giovane, fumata c'era anche lì. Poi c'è chi è fortunato e si salva, però chi ha patologie tipo mamma, se dai assuntarrata, ma ormai non è uscita. Mamma, tumore, pacemaker. Poi c'è la diabetica, poi c'è questa cosa, se la metti spaventi, l'ernia ombelicale, da sulti, proprio pare un pallone, poi gli faccio un pallone di chi si minoretti in panza. Vedi un po', via. Però ti posso dire, per come ha passato la vita mia madre, già... Mi ha un carro armato, dai, mi ha un carro armato, non lo so finché tiene, non lo so, questo non lo so, però è lottato, Vabbè, non lo so quanto possa tenere, ancora già, perché non sta bene oggi, lo stesso, come il cane praticamente. Eia, siamo qui. No, nulla. Dove sei con la camicia sono quegli amici là? Luca. Azzardo. E tanto. Qui a Natalino l'attimo sono uscito fuori. Dove è la signorina, dimmi. A vedere dove sono quegli amici, dove sei con la camicia? Sì. Però non mi ripassi di lì, Qualcuno me ne fa vedere, Non lo so, ci stava mandata, però mandagliela tu. Non so il cognome. Cioè, come è messo lì su Facebook? Capito? Tu lo sai come è messo, se sai come si chiama su Facebook... me lo mandi su WhatsApp. Lui te l'ho mandato. Positivo è la parola. Ebbene tu, il display è ordinato. E ordine uno, futti di niente, metto la colla, futti, ce l'ho la colla, fregatene. Cosa mi ha futti, tanto, va. E fai una mezz'oretta e asciutta la colla, voglia, Poi se non hai fretta prima di qualche giorno qua, così asciuga bene. Al telefono me l'ha mandata. Cosa? Al telefono mi è arrivato. Cosa? L'amicizia di quello lì. Ah, ti è già arrivata? Di Facebook? Sì, però al telefono mi è arrivata, non al computer, va bene. Adelante, vamos a ver, se va escuchando la Italia que va llamando, no comprendido, por favor. Aquí la estación Lima Puni, Forchali, APA, atento mi hermano, vamos a ver. Se escucha el señal 5, radio 5, ok mi hermano. Aquí, por acá, tengo señalito 9, radio 5, ok. Quasi no. Es un tujuno, es un tujuno. Perché se chiama la 25, cosa dirti, perché non mi chiama Edda. E vabbè, meglio farlo il primo passo, che poi magari se non lo fai dici che non la caghi. Cava cava. E beh, tutti fuggiti ve ne siete. No, adesso ho il telefono, Natalia, aspetta. Cava cava. Antonio, ci sei? E vabbè, chiama dopo. Riccardino, che fine hai fatto? Ah, meno. Azzardo! È al telefono. Ah, ho capito. Ma sta giù la vita, che giornata di merda oggi, Natalia. Mamma mia, va, ma di merda veramente va. Aspetta un attimo, non suona. Oh Lu, cosa dici di toglierlo il polmar e di lasciarne uno solo qua? Lascia quello lì, tanto quello lì, me legato, lei è proprio carino il polmar. Fatti indinare. E adesso chiedo anche a Antonio, vediamo un po' là. Tu vai, sei tranquillo con quello, oggi c'è lo Smith, c'è un baracchino come si tocca, capito? Ehi, infatti. Natalia? Azzardo, tornato sì. Voglio a zero. Chi è l'altro? Io sono. Volevo un consiglio, Antoa. Se lo toglievo il polmar e lo mettevo dentro la scatola e lasciavo solo questo che sto parlando adesso, oppure a lasciarlo. Lasciarli tutti e due. E facciamo così allora. Noi, ma... Ah, te si cosa laggiù tu, va. C'è l'antenna, mettila in macchina. Ah, vabbè, se offendi pure i tempi di lì in casa, vabbè. Poi quando va a farsi un giretto se lo usa, ma si piatta al quadrato così, prende un po' d'aria, fumarsi un paio di sigarette, si ferma lì, si fa una chiacchierata dal quadrato, come faccio il doppio numero. E vabbè, normalmente si può pure una sigaretta, vero, ma sta lì, parcheggiato. A Morres. Allora dillo che c'è una pergoletta anche. Carusia. Proprio manteniamo tu adesso. Cazzo, sembra ieri, allucinante. Tu lei copi e tu invecchi. Sì, non sei solo, no. Ma pure Natalino è così, non hai detto concetto a me. No, la funzione è calata. Vero Natalino? Luca! Alla prova che la cindria! No, tu pure l'ha detto, mica ma butta sai a me! Per me ancora già funziona! Quando è fatto con la pisciata! Io non ti ho detto niente, e non dire bugie, che quel naso ti cresce e le gambe ti diventano corte. E chi si chiama Pinocchio? No. Aspetta, ma te vedi umano, una gioca più umano, che è tu. E tu, lei l'ha detto, che non funziona più l'attarino. Tutto ben brutto. Luca, poi te lo do io a vedere se l'ho detto io o chi. Tu l'hai detto l'altra volta al baracchino, vero l'attarino, confermi? Secondo me tu ti hai fumato qualcosa di strano. Io no, io non fumo l'attarino, nulla, non fumo né basilico né aglio né prezzemolo, nulla. Se lui mi manca. Lui, per carità. Vabbè, là, qui ci l'ho resettato. Cosa devo fare? Non so più a che muro sbattere la testa. Qui ci non fa nulla. Siamo triballe quanto che. Pare poco a fatto, vediamo. È meglio del VG. Era quello da voglio che l'ho fatto, gli ho pulito l'avvento, ho cambiato la pasta di raffreddamento, tutto smontato, pulito bene, adesso il sistema operativo tutto aggiornato, perfetto, scaricato i driver, tutto. E il PC se non andava bene, io non ci ho fatto 50.000 computer, non è il primo, no? Ne ho fatto tantissimi. E se non va io non posso fare nulla. Quello che posso fare. Mi dà quello che non li forze, vero? Invece ne manco una, non ne manco un caldo. Zia. E cosa vuoi di infuzia? Cazzo, c'è un casino. Veramente ce l'era uscire di testa, lo so, anzi lo so. Già me ne sono avvisato. Già lo so. Purtroppo. È un casino. Ma anche con i televisori, io stessa cosa. Non conviene più la Vini. Allora conviene comprare solo nuovo. Vedi, invece ti capita che magari trovo ripare che vuole aggiustare il connettore dell'antenna, mandala a me. Sono un baghissu, e chi via, un cinquantone vanno bene, tanto il tempo lo perdi, il materiale ci vuole. A chi usa forse secondo te? Me la si faccia tu, se così la stai, bisogna compararli, mica andare a compararli. Allora, una volta mi è successo, con il televisore, l'avevo già riparato, no? Però cioè, abbiamo staccato il coso, è rimasto il pezzo dentro, più giù in fondo, è un casino. Allora, cosa ho dovuto fare? Ho dovuto mettere... lo spinò asfalto, diciamo, nuovo, però dritto, appoggiare al pezzo che c'era dentro. E comunque ha ripreso a funzionare, teso. E poi ha fatto il cavettino dal connettore che arrivava giù, in modo tale che quello lì lo toccava, solo lui si alzava a dorra. Ma infatti, chissà. Che barba che noia, Natali. Ah, stavo scherzando, ci mancava. Natali, bello. È duro come... come la roccia. Allora, andiamo. Stai mangiando? Ah, ho capito. Io ho mangiato... si chiama una fiesta. E un plum cake. Ma tu la non ne mangi proprio. Se si accusi. Ah, ho capito. E beh, come appunto, mi sono uscito a fuori ancora, tutto quanto mangiucchiato sono, boh. Boh, carità, ragazzi. Ho comprato quello spray all'Europi. Sì, ti ammazza, in campagna micidiale. E beh, poi l'erba avevi finito tanto. Proprio da solo. Ah, quasi compreso. Ah, giù capito. Beh, vabbè. Comunque si è per andare a dire, a Clipani? Ma una bugiata da Sassari. Ma pure in piatti che ci fai tanto. Ah, ho capito, da zero. Come fai da solo tanto? Tirare, infilare, tirare, come ti fa? Ah, è da lui? Ah, paghi tutto, non è un accumulatore, ti cosciano i vasi. C'è una forumaniale, non muoca c'è a fine. A 30 o a 40. Ah, beh, perché è giornata, sì. Beh, direttamente sì. Ho capito. Giugavite. E vabbè, buona sapessa, tanto me queste cose una sorta me ne capitava, sono un po' di meno. Ma è da rivedere un impianto elettrico, capito? Cose così. Per caso che sento qualcosa già ci mettiamo d'accordo. Andiamo a mettere un po'. Ehi, che stavo smontando quello là. Dimmi. Perché sono lontano. Sì, c'è un rumore sotto, Natali. Rumore sotto? Beh, tanto, cerca, così, tieni la portante, Natali. Ah, mamma mia, come sto. Dimmi. Lo senti, Antonio? Natali, tieni la portante, la vuole sentire Antonio quel rumore che hai. E comunque c'è un rumore. Cerca, come se ci aveva problemi di alimentazione. Prova a passare un po' il coso, Natali, l'amplificazione. Guarda, così abbassata, a metà. No, c'è una cosa che non va, Natali, se non andiamo male. Attenzione al microfono di tavola, Natali. Ehi, quello là, guarda, questo qui è il coso, l'MB+4. Adesso io ho smontato quello là, per lasciare solo questo, capito? Sì, c'è questo rumore sotto, tipo alternata. Ehi, vabbè, tu vai questa antenna, quello di scimmia. Lo so, se ce ne va niente, ma io non sento niente. Tutto pulito sento io. Capito. Ehi, ehi, ehi. Vabbè, che stiamo trovando, ma apri Google Chrome, e io? Ci sono sui coglioni, cazzo. Che bicicletta come fa problemi di armischio? Guarda, è più letto da una roba a zoppa. Ehi, scusate, ma è roba... Dice che dai, non ne so più già, boh. Allora, oggi 26 gradi, domani 29 con 10% di pioggia. Venerdì ha messo pioggia di 60%. Poi sabato ha messo 25 gradi, domenica ne ha messo 28, nuvoloso, con precipitazione del 20%. Luca, guarda se c'è ancora l'alternata, che forse non era stretto bene l'alimentazione. Lascia a posto. A posto è adesso? Sì, signore. E allora era ghisso. Mi hai fatto spaventare tu? Adesso prendo all'insaputa di mia moglie e me lo vendo, non vuoi a vendirlo. Il Pormar. O lo brucio oppure me lo vendo, è meglio vendermelo, va, così me ne piglio uno per la macchina. 70 euro l'avevo pagato. 70 euro l'ha già pagato. E non si va a nulla. Ma che macchina chi susivi? Aspetta un attimo, hola, sempre 3 watt da, ma dimmi tu, non dovrebbe dare 4 watt, invece no, 3 ne dati. E infatti non gli ho aperto l'LC, nulla, non l'ho toccato, qui tu devi rimanere così. quando vennero a controllarmi i passi in mano, il verbale, tutto regolare, allora posso anche aprire la LC e i canali. Anche. Infatti non glieli tocco, glieli lascio così, almeno posso pilotare quello che voglio. Certo di base, ma no, c'è questi vicini che ti scassano, va. Solo chi su Mavusi hanno fatto, vengono, guarda, a uno da qui, alla cognata di coso, con la pistola sono andati, mi hanno fatto di montare tu. E anche quelli da me. O da me trovano pane per i loro denti. Vabbè, a me già me ne hanno fatto torti, Ma come? Tre volte al capo. Vabbè. Poi alla fine mi sono tolto le balle e l'ho smontato io. Perché non volevo più. No, vabbè, comunque già cosa è passato ormai. Aspetti, faccio sentire il microfono normale. Oh Luca, a vedere se è aperta o molto chiusa la LC. A chi sarà un bel sarrada, io penso. Già con l'MB più 4 non amplifica, boh. No, questo qua me ne sono accorto che era un bel chiuso, infatti l'ho aperta e ha cambiato, la giorno alla notte. Guarda, questo è il microfono normale. Si prova. Guarda, 1, 2, 3, prova. E non andava. Quindi va bene, lasciamo così. Positivo, frate, che beh, certo. Allora il tuo era ancora più chiuso di questo, così. Il mio era quasi chiuso. Ma, adesso lascio così, tanto se mi sentite, là. Finché quando c'ho il verbale tutto regolare in mano, allora posso fare che cosa, sennò nulla. Anzi, io non lo do qui a... Già mai compreso lui. Ehi, ebbè. Non mi sono scordato di te, caro. Tu sì che mi calmi i nervi. Ehi, Antu, cazzo, non sai il modello, te l'ho mandato, eh. Antu, ma per il ricevitore Iaesu nulla mi possono dire. Questo è un portatile, questo ricevitore della Iaesu. E c'è l'antenna esterna. Allora, deve essere M190 ma 1901F7G, quello lì. Sì, il VR500 è quello portatile, ricevitore Iaesu. Capito? Vabbè, F7, allora F7G, penso che sia uguale, perché c'è, questo va bene anche al 1901 F7H. Il mio percolo è là, il mio amore si potrebbe svegliare. E qua. Ma è vero, sì. Perché? Questo qui va bene anche in quello là, nel 5. Cosa? Questo MB più 4 hanno gli stessi attacchi. Ah, sì. Quello che ho in scatola, il Polmar, invece c'ha 8 attacchi come il Kingwood. Infatti l'altro MB più 4 in scatola c'ha lo spinotto a 8. Ah, ho capito. Vabbè, ci andavano a te, sì. E a voglia. Solo che questo è normale, gliel'ho tolta la modifica. Non lo so se amplifica di più la modifica. Ehi, a fottidini. Secondo me se lo metti di LC pompa di più. Sì, però sono venuti con l'analizzatore di spettro qua, si nabizzano si abissi. Allora sono gusti Natalia, a fottidini, allora gusti e fregatene. E infatti l'importante è che mi sentite. Che non sia come Teghidu, che non... Oltre il coso, anche più basso esce quello lì. Buon Natale! Oia! Ciao Riccardì! Ciao Natalì, chi c'è? Ho appena finito la videolezione e sono tornato. Ah, capo, non sapevo che fine avevi fatto. Oh, cosa ti volevo dire? C'è Antonio Riserva e Luca Manicomio qua. Ok. E beh, Riccardi, studiato, eh. Un'ora di video lezione per parlare che cosa abbiamo fatto. Che scuola sei? La 12, via Mastino. In terza? Seconda. Ah, capito, vabbè. Purtroppo, bisogna studiare. Anche loro devono lavorare, e voi dovete studiare. Loro sono pagati lo stesso. Ho capito. Cioè, ma la mia professoressa fa le video lezioni quando non ha internet, era tutta a tratti per un'ora, non si capiva niente. Vabbè, voi dici aveva la connessione ballerina. No, è che non ha connessione, infatti si è spostata da casa sua e è andata a casa della cognata, ma teneva a casa la cognata per pur di farci soffrire. Dimmi tu. Domani deve avere a Vibra una che fa questo lavoro qua. E vabbè. Vai a tu, conferma, aprendo. Sì, allora nel flash c'è scritto, aspetta, qua nel tuo c'è scritto A1-00. E qua c'è scritto lo stesso, A1-00, poi c'è scritto 15, 40, 37, 44, 15. Sì, è giusto, poi 19. Questa qua dice, no aspetta, casino, grazie, aspetta, no. Allora, aspetta un attimo. Cava, e via, anda bene meda. Ho ordinato due di quelle siringhe di pasta per il processore, ragazzi, io qua è un casino a toglierlo, già viene poco di roba. Da Gavanni per poterlo fare. Anto, guarda, ti ho mandato la flat, leggi, così deve essere. Aiuto, ragazzi, sto creando una cosa allucinante, quello lì devi comprare, Anto. Amici, è una roba aperta, mi accomodo sul computer. Ricordi tu almeno, aspetta, rimani al baracchino, mi devi dire la M1901 e ti che ballati, aspetta. Aspetta un attimo. Non riesco a trovare il driver per questa pennina SDR, che volevo fare l'attacco, li volevo fare, non me la riconosce, SDR Sharp. Ho trovato io, Nathalie, buonasera a tutti quanti, ho trovato io nel computer. Ciao dottore, buonasera, la mia è DAB più FM più DVB trattino T, però altro modello non ce n'è, capite? Ci vorrebbero i driver per questa pennina che l'ho ritrovata. Ed è per l'SDR proprio. Se no mi tocca comprarmi un'altra, mi da zara. Quanto a 12? Quello è il coso, deve prendere. L'antennino c'è per attaccare l'antennino, se no non fa. Eia, l'antennone attacco io. C'è un attacco TV proprio. Basta fare da TV a PL femmina e via. No, ma ci deve essere un altro attacco, di attacco piccolino a coso, con l'antennino suo, che prende lo stesso. L'antennino suo già ce l'ho, però non ce n'è altro attacco, è TV. È TV. Devo trovare l'attacco del TV e l'attacco piccolino, ecco quale ti sto dicendo. Attacco piccolino qua non ce n'è, c'è l'attacco TV e bu femmina, capito? Come quello che c'è dentro la TV, basta fargli uno spezzoncino e funziona, l'attacco l'antenna di nobbi. Ah, quindi sono ben di programmi, sai quanto ne ho trovato io di questi programmi qua, come quello del pennino, buzzeffa. Ma tu provati, li hai, funzionano. Cos'è Nathalie? Provati li hai a vedere se funzionano. Tutti li ho aperti, tutti quanti quelli che ho trovato ho aperto e funzionano tutti, in qualsiasi banda che vuoi andare vai. Boh. Allora ti dobbiamo vedere e devi venire tu ai nobbi, che io non ho già avuto baita benina. Boh. Poi possiamo fare, aspetta, posso venire venerdì. Venerdì, perché domani devo aspettare un pacco, quindi vengo venerdì verso 10:30, alle 11. Andavetto. Perché mi interesserebbe ascoltare anche altra roba oltre che qua, capito? Perché col ricevitore scanner che ho io non si sente più nulla. Così ti faccio vedere anche un altro ricevitore che costa pochissimo. Al limite mi do un pareggio. Quel ricevitore che mi vuoi far vedere tu, se costa pochissimo e funziona. Oh signor, l'altro omologato me l'ho smontato da qua e ho lasciato solo questo, così a manco va giù in chiusura e boh. Andava, io non c'ho lo stesso qua, l'emologato, io c'ho l'Intec M899 Vox. Caffa, ma che non funziona manche in macchina, io sono sicuro, a chi è sicuro più basso di segnare, di dico. E sotto, tutte e due con 3 watt, so. Sì, questo che ho io è 4 watt, se non lo tocco va nulla, si può ampliare di watt, ma non lo tocco. Cioè me ne venga con una casa e mi dice che è toccato, invece non lo tocco. Mi è arrivato graffiato, mi è arrivato. No, il mio già mi è arrivato tranquillo. Questo qui, il Superstar 3009. Però è quello tutto chiuso, mi 40 canali surva e 3 watt mi dà. Neanche a 4, non ci arriva a 4. Certo, non è proprio 30 anni. Ho messo 3, invece di mettere 4 hanno messo 3 watt, gli hanno messo. Quanti sono? Aspetta che facciamo, se no interrompiamo gli altri. Luca, ci sei? Deve essere se fraccato, Luca, deve essere contenere il computer. Anche tu devi aggiustarti il computer. No, il mio funziona bene, funziona il computer, solo che non so quale programma prendere per questa pennina. E poi di la vostra video chi c'era proprio per SDR. Se riusciamo a farla funzionare, a fargliela riconoscere a un programma, ci vogliono i driver che io non trovo più, se no me la compro nuova la pennina se non troviamo i driver. Allora, quel pennino che stava dicendo coso, io l'ho trovata, però vi buone vedo un mese arrivi, perché è cinese, originale proprio, e costa 14 euro e qualcosa, costa. Figurati un po', forse c'era qualcuno sotto che voleva entrare. Vabbè, adesso vediamo se riusciamo a far funzionare questo, se no prenderemo provvedimenti. Nadalino! Oia, dimmi! Invece che penne le cinesi, ne ho trovata una su questo sito italiano che chiedono praticamente un po' di più, però è la garanzia, è buona. Vabbè, infatti adesso al prossimo mese me la prendo, adesso vediamo se riusciamo a far funzionare questa. Che ho. Io ce l'ho da tanto tempo questa qui, solo che non gli avevo fatto mai neanche l'attacco dell'antenna, me l'avevano mandata con un antennino piccolo, calamizzato, questa qui. Però io un antennino piccolo già ce l'ho calamizzato, è anche più potente di quello che mi hanno mandato a me. E se no gli attacco l'antenna della 27 per ascoltare le HF e vediamo un po'. Mica ce l'ho anch'io quella pennina, anche a me mi hanno dato l'antennino magnetico. Ma io non riesco a trovare i driver della pennina, perché non c'è il modello, non si sa se 2832 o qualcos'altro, boh. Sopra c'è scritto, allora, DAB più FM più DVB trattino T, c'è scritto sopra, non c'è scritto altro. E c'ha l'attacco TV per l'antenna, capito? Io gli faccio uno spezzone in modo che la posso attaccare all'antenna. Tanto c'ho anche il commutatore qua, mi giro e via. Aspetta, aspetta lì che c'ho il coso io. L'antenna TV fatta a coso, con l'attacco TV. Ce l'hai lo spinotto tu? Ehi, c'ho la base proprio per attaccare la macchina. C'è proprio la base per l'antenna. Vabbè, vediamo un po' se funziona con quell'attacco lì, se no gli faccio l'attacco a livello e devi funzionare, fai tutto. L'importante è che me la riconosca il programma, se non c'è il driver non posso fare nulla. È USB e attacco TV. Sicuramente riconosce, se riconosce la TV, si riconosce. Ecco cosa è. Io ce l'ho, però è da mettere nella... mi riconosce solo la TV a me. No, questo è proprio per SDR, questa che ho io. È così, sì. Poi io l'ho trovata una, coso, il pennino, quello che ci ha detto coso l'altro giorno. L'ho trovata a 14 ore, più di un mese vi buono arrivi. Ma Riccardino l'ha trovata su un sito italiano addirittura. L'ha trovata al limite Mirabilio il prossimo mese quando ritiro. Perché adesso ho anche la carta che scarica, capito? Ti ho preso altre cose e quindi. Guarda, i programmi che ti faccio vedere io, venisò 50 venisò. Te ne scegli uno, che del coso ci vai come si apre, come nulla si apre. Allora lo metti a far funzionare. Boh, io ho già visto quasi tutti, l'ha già visti. E li ascoltavo, mi ce l'ho attaccato nel computer, ce l'ho aperto e sto ascoltando. E che programma è quello che c'hai tu? SDR, basta che vai su SDR e cosa te ritrovi, Roma 2, Roma 4 e te ne dà programmi, te ne dà quanto ne vuoi, te ne dà. Ma a me mi servono, non mi servono quelli, no, mi servono i driver per la pennina, è la pennina che non mi riconosce. Allora bisogna cercare il driver suo. No, aspetta, venerdì lo cerchiamo assieme a vedere qual è il driver, perché quelli lì hanno il driver, se non c'è il driver suo non te la riconosce la pennina. E infatti il programma si apre, però non mi riconosce la pennina, come vado a schiacciare quella pennina lì, mi dici che non è connesso. Sì, perché ci vuole il driver, ci vuole il driver, Natalia. È così. Riprende Riccardi. Riprendo io. È un problema perché quando mi ha detto Attalino che non si sa qual è il driver. Invece comunque anche se col sito cinese la vende a 14 paghi poco di più e la prendi su questo sito italiano che è la garanzia e ti arriva molto prima. E infatti vedremo, adesso vediamo se troviamo il driver di questa, che vorrei usare questa qui io, dato che ce l'ho, altrimenti me la prendo una e cosa vuoi ti dica, se non la riconosce no, non c'è nulla da fare. E infatti è così. Luca si è farato comprare un computer. Ma stava parlando con Antonio, o si sono spostati perché stavano discutendo di una cosa che devono comprare, o sta aggiustando il computer, stava aggiustando un computer Luca. Già così sì, vabbè. Già va benissimo. Io Riccardi. Riccardino è scappato, boh. Deve essere il vaffanmi ad un muro. Aspetta che c'hai un format tu per attacco da cavo 2 a 8. Cosa? Però c'è il microfono po'. Cercami che sto abbaiando e non ho capito. c'ho un microfono, l'MB più 4 c'ho con l'attacco Kimbo, dimmi. Solo che ci sono attaccati quattro fili solo. Guarda che c'è il Puma. Eia, l'omologato c'ho. Infatti non l'avevo fatto per quello lì. Solo che lì su non lo budi tu qua, e se basso sia di watt che di radio. Lì su manchi in macchina non andava. Natalino! Eia, dimmi Ricca. Sto avendo problemi alla radio, aspetta. Eia, dimmi tu. Ma non era il forma di cose, il microfono? No. Il baracchino è Polmar, quello piccolino che ci ho omologato, però chi sono io a giugavato e a giudagato su Ruizio. Fatto bene, cioè, invece qualcuno che vuole entrare e tenta di sorpassarti, ma non verdeci però, a parte chi vuole entrare. E c'era Riccardino e aveva problemi all'apparato, boh, Riccardi tu sei. Aspetta, non lo so Dio, vabbè. Vuoi entrare? Entra, già siamo i nomi. Andave, già va bene tutto. E vabbè, io ho questo qua che si può usare il microfono anche con la cuffia e un microfonino a coso, da attaccare. E ho capito. Poi ce n'ha uno che si attacca a coso, alla leva del cambio. Alla leva del cambio? Sì, in macchina. Tu parli e lui si attiva. Ma tu chi sei? Era il telefono con tua zia. L'avevo rinato. Ah, ok, d'accordo, va bene, là. Che stavo andando a prendere, sono capito. Oh, disgraziato! Ciao, attentore, scusa, attore, che sto... scusa se mi ho interrotto, che sto dicendo una cosa al tuo colore. Sì, fai, fai. Già te la posso pagare, chissà. Davvero? Sì, davvero, Willy. Pensa un po' quanto ti posso pagare. 10 milioni di euro? Sì, anche a che cosa ti manca un buco. Cosa è? No. Ormai, cosa ti posso pagare? Davvero, Natalia, ripeto. Ma davvero? Tu hai poco uomo, devi Natalia. Davvero? Sì. No, con comune sei tu, sì, non io. Meno, mi dici la tua, se può comune. No. Non fa così, non c'è un studia, no. Allora sei drogato, sì. Anima c'è duia, sta via. Dopo un po' c'è toi. E cappa, e mi lamenta Falcone a lui, drogato! Allora c'è cosa, una dia, giù mai divenne l'infarto, gatto. A chi vira chi su Piero Drago che lo fa di arrabbiare in una maniera, va, un animale diventava. E a chi? A Falcone. Mamma mia, ui, infatti quando, quando c'era lui in frequenza, c'è un babuganari io. Fasi abbassaggi di un'ora. Pura giuridda, Eva, ne cura giuridda. A Sorso. Sì, ce l'ha portata a Sorso. L'ho visto quando è. Nel mese di dicembre l'ho visto a Città Mercato. Ah, capo. E invece che è venuto a fare la spesa e tutto ce l'ha regata appresso. A che ragione non si può lasciare? Ui, scusa la casura. Poveraccio. Ma quel Piero Drago lo faceva incazzare, mamma mia. Infatti se l'ha portato a Sorso, la sorella se l'ha portata a Chinoghi, non fa zia a tenirlo. E poi da solo lo lasci, come fai a lasciarlo da solo, una persona in quello stato, non si può. E io e il mio marito della giurida, quanto c'era il nido. Poveraccio, non è colpa sua, va, deve essere anziano, mi. Era io un bel più manno di me, su. Era. Quando entrava al baracchino, era già grande di età. Non ti credi molto, no. Se ci avrà, ci avrà un 65-66 anni. È probabile. Infatti ed è così. Vabbè. Ormai un mediente se ne è andato, abbiamo mollato un lutto. Sì, infatti. E allora come si è parito Rami? Quando finisce il gozo di Covid-19 cominciano a sparire la gente perché se ne va in giro. Ma quello sì, ma già venne l'inverno. A tapparti. Comunque nel tablet ho letto che molti giovani su in Alta Italia se l'hanno comprato questa cosa qua quando ci avevano tutto chiuso, tramite internet ce l'avevano ritirato direttamente a casa. Ne suicidi un bene i suicidi in Alta Italia. E infatti io ho parlato con quelli del Covid-19 che erano sul Lago Maggiore, stavano facendo una specie di contest, mi hanno mandato la cartolina QSL per posta elettronica, perché io non ne volevo, che ha detto non ne ho PO Box, e mi ha detto il computer ce l'hai, sì, allora te la mandiamo per posta elettronica, e mi ha mandato da Milano. Uno dalla Francia mi ha mandato in posta elettronica, me l'ha mandata una cartolina, ma bella è. Sapete cos'era? Un italiano era. Aiuta, te che come travagli anch'io. No, sta in Francia, sta. Se n'è andato in Francia, se n'è andato. E faceva il cuoco fa. Figurati. Beh, sono soddisfazioni. Dice che va, ma mandato la gasolina e tutta la stazione che c'ha con l'antenna, una direttiva. Figurati. E io cosa rimando? Che faccio un baracchino solo. Io sono quello che ha più poca roba a Sassari, io penso. Sì, cazzo. A chi? Quando ho iniziato io non c'avevo un piccolo apparato, lo stesso un Intec che c'avevo allora, 34 canali, e c'è un tisso. Poi mi avevo comprato uno a 200 canali e uscivo con quello da 200. Poi mi sa che ho fatto da Jimmy Dudu. Io già ce l'avevo una bella stazione, ce l'avevo il Saturn Echo, il Presidente Lincoln, il 44 avevo, va più i microfoni, va più l'MB più 4, il Turner più 2, il più 3, lo Shure, e andava più poco di roba, ma non va giù più nulla, va giù in tutto. No, io ho l'M più 5 attaccato a questo qua, al presidente, quindi è più l'Intec che ho omologato, però sto usando più questo, il presidente, che questo Intec. E infatti io mi sono comprato questo perché devo averlo omologato, che devono venire a controllarmi, capito? Che disturbo le TV, anche se non è colpa dell'apparato. In digitale non entri nella TV, nel digitale non entri, sono loro che sono fissati perché c'hai la cosa, l'antenna, andate che cosa, non è così, perché se erano stati loro, a me mi è successo, sono venuti a casa, c'era il 34 canali, me l'hanno controllato, mi hanno controllato a vedere se disturbavo, sono saliti da lui, sono saliti a vedere se disturbavo, non disturbavo, gli hanno messo la multa a lui. E questa volta faranno così lo stesso, perché il mio, questo qui, è omologato e marcato CE, va 3 watt, cosa vuoi dire?